io son. Tu non mi inganni, dunque io son la fortuna. Già me l'ero immaginata, lo sapevo. Siete voi, bella rosina, siete voi, bella rosina. Oh, che volpe sopraffina, oh, che volpe sopraffina, ma l'avrà da far con me, sì, ma l'avrà da far con me. Zitto qui l'indoro per parlarvi or sarà. Zitto, zitto qui l'indoro per parlarvi or sarà. Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro di pazienza. Ma che parla, ma che fa? Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, li mandate, qui verrà, li mandate, e qui verrà, li mandate, li mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che, ma di che? Si sa. Presto, presto quel biglietto. Un biglietto. Eccolo qua. Ah, era scritto. Vecchia bestia, vecchia bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati avete i miei, io comincio a respirare. A che in cattedra costei di malizia perderà. Donne, donne, eternisei, chi arriva, chi arriva, chi arriva a indovinar. Senti, senti, volentieri. Qui verrà, a momenti per parlarvi qui sarà. Zitto, zitto, e qui verrà. Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina. Figaro, non so nulla. Ti parlò? Mi parlò. Che ti diceva? Oh, mi parlò di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina. Davvero? Ed io scommetto, che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro? È sporco o nulla? Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro oro l'ho medicato. Diavolo! E questi folli? Or son cinque e deran sei. Quei fogli, è vero, d'uno mi son servita per mandar dei confetti a Marcellina. Bravissima! E la penna? Perché fu temperata? Maledetto, la penna è la penna per disegnare un fiore sul tamburo. Sul tamburo! Un fiore! Un fiore! Un fiore! Oh, fraschetta! Davvero? Zitto! Credete? Basta così! Signore! Non più! Tacete!